Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua al Ristorante Convento con gli ultimi ospiti della serata. Ecco, abbiamo... come ti chiami? Stefano. E? Emanuele. Emanuele da Concesio, giusto? Concesio, bene. Sì, grazie. Questa zona, questa zona. Stavamo parlando della sicurezza, non della nostra sicurezza, giusto Emanuele? Sì, sicurezza, non sicurezza, della percezione di se stessi, di come... magari certe idee possono essere vere o non vere da come ce le raccontano. Tu cosa dici, Stefano? E dico che Sandrino è il migliore. Ecco, mi piace che Stefano è mio mezzo parente quasi ormai. Tra l'altro è stipendiato da me, ecco. È per quello che dice così. Grazie Sandro. Però stavamo cercando di capire se è meglio essere sicuri di se stessi o non esserlo. Cioè, evidentemente mi tocca fare il Cruciani della situazione, rompere così. Oh, io dico che bisogna essere sicuri, ma fino a un certo punto. Avete fino a un certo fan. Punto. Ciao Beatrice, ci ascolterai. Ah, Beatrice, salutiamo Beatrice, sì. Che è la vostra amica. Ciao Beatrice Foresti, nostra. Sfortunatamente siamo stati al suo matrimonio e si è sposata. Ah, si è sposata. Grande tristezza per tutti, non mi sembra. Non tutte le ciambelle riescono col buco, Ale. Una tristezza, è dura, Quando queste belle ragazze se ne vanno, gli amici soffrono. Sì. Giusto? Sì, però è simpatica. No, molto simpatica, molto bella. C'è da dire che comunque per quello che ne parlavamo prima, io credo che ci voglia un po' di sicurezza, ma non troppo. Cioè, essere sicuri in se stessi è una cosa importante. La ma sicurezza è fondamentale, Emanuele. Grazie Stefano, ma boh, un po' di sicurezza anche negli altri. Cioè, bisogna trovare un equilibrio tra sé e gli altri. Tu cosa ne pensi? Bisogna avere fiducia delle persone. Volevo sentire Stefano, cioè tu. Sì, se vuole parlare, volentieri. Bisogna lasciarsi andare, avere fiducia dalle persone. E quindi in qualche modo bisogna mettersi in gioco. È importante mettersi in gioco. Voi vi mettete in gioco? Vai tu, Stefano. Ci mettiamo in gioco, ma è dura farlo. E io se posso parlare mi metto in gioco, ma perdo sempre, quindi mi sta passando un po' la passione. Non lo so, Ale. Bisogna avere fiducia delle persone, giusto? Esatto, ma allora se la metti dal punto di vista della vittoria e perdita, ma se tu la metti dal punto di vista partecipo. No. E sono d'accordo, ma l'importante è partecipare. Vedi. Scusami, io dirò di più che io fondamentalmente io sono per la sconfitta, cioè se dovessi dirlo. No, per la sconfitta nel senso che il mio scrittore preferito è Hemingway. Perché per Hemingway gli eroi sono eroi? Perché nonostante la sconfitta si continua sempre a lottare, che poi viene, non dico banalizzato, però è la storia di Rocky. Ma noi lottiamo veramente? Beh, ci si prova a lottare, certo, non lotteremo mai come i nostri nonni, non lotteremo mai come i nostri padri, però nella nostra vita cerchiamo comunque un po' di lottare. Come Rocky, non importa quanto tu colpisci forte, la vita ti colpisce più forte, l'importante grande è come ti rialzi. Stallone. Ha vinto l'Oscar non per caso. Tu cosa ne pensi, Ale? Dici la tua idea, non farci una domanda, dici la tua, cosa ne pensi? Io sono d'accordo con te, mi piace un sacco questa cosa, questa filosofia, ma mi piace un sacco ascoltarti perché secondo me tu hai questo modo di parlare alle persone e secondo me le ragazze le streghi così te, con questo tuo modo. No, le strego strapoco, Ale, cioè no. Mi piacerebbe quelle poche, cioè a volte mi riesce, ma le ragazze adesso interessano altre cose, non lo so, ma sai che forse facciamo partire una canzone perché il nostro pullman sta per... Ah, sta partendo anche il pullman, cioè, pensavo quindi che i segni fossero perché ci volevamo bene, ma in realtà i segni erano per... I segni sono minacce. Però mi sembra. Sai che è un peccato, perché sarei stato qua tutta notte a fare la diretta. Sarebbe bello perché tu secondo me potresti fare addirittura una rubrica in radio per come parli. Sì, ma per i rompicoglioni. No, cioè quelli dalle 3 alle 5 di notte che non riescono a dormire, che li faccio addormentare. Ale e Emanuele non sarebbero male coppia radio. Tu dici? No, però per quel pubblico di nicchia che ha voglia di ascoltare. Posso lasciarli con una poesia in latino? Dai, facci la poesia in latino. Una poesia di Catullo, cioè a chi non è mai successo di odiare e amare nello stesso momento. Odietamo. Esatto, odietamo sarebbe, perché il mio collega non conosce la distica elegiaca. Ok. Odietamo, quari facciam fortassere quiris, ne sho, sed fieri sentit ex crucior. Che significa odio e amo, forse, mi dirai come sia possibile. Ti dico che non lo so, ma so che soffro come se fossi in croce. E quindi, boh, speriamo che vi amino così. e speriamo che voi non amiate così, perché è un sacco di casino. Grazie, grazie Stefano. Grazie, grazie Ale. È stato un piacere, Fesso. Sai che la radio mi piace. Piace. È stato un piacere. Ti ci vedo. Spero ti che vedo. Sia piaciuto un pochino anche a te, anche se sì, siamo molto, un po' ubriachi. Molto, molto. No, no, bellissimo, perché è stato un piacere. È raro incontrare due persone come voi. Oh, bello. Bisogna cercare la cultura, non è fatta per l'elite, la cultura è fatta per tutti e quindi bisogna cercare di darla a tutti, anche se questa poesia indistici elegi erci avrà rotto il cazzo, ma l'importante è darla. Ecco, questa frase la potremmo usare anche come consiglio a tutto il pubblico femminile che ci sta ascoltando, va bene? L'importante è darla, okay. Perché poi da vecchie non la vuole nessuno, datela, esatto, datela. Grande, i consigli di Emanuele. Grazie e Stefano. Ale, ciao ragazzi, ciao.